sol. Attento Britella. Sì? Attento Britella. Avanti. Marco Scorpio. Stai uscendo, ciao, io non sono a casa, non so se mi senti bene. 9 più, io sono in campagna. Vabbè, non noto niente di che, però stai andando benissimo. Buona, 5. Sì, vabbè, ormai di l'anno 3 siamo tratti di tutti, Marco. Io sto usando questo baracchino. Però funzionano bene, le facciamo andare, dai. Ancora c'è la mini. Porca miseria che... Va bene, bella, mi piace. Quella è la Battimobile. Eia, sono qua. Vabbè, stai parlando sempre con Claudio Sparviero, non è buccia di gioco. Va bene, dai. Ehi, Marco, fai, intanto io sono qua che sto scattolando. CQ canale 10, c'è nessuno? Qua sogno. Già va bene, ti ascolto benissimo, Marco, non c'è problema. Io scusa, sono indaffarato che sto traslocando. poi c'è lo segnale di una e dell'altra. Se non bene quella lì, lascia quella, cosa stai a cambiare? Segnale 9 più 10, ma tu dove sei? Sotto casa tua? Più 3 con Galaxy, non c'ho altro, Marco. L'unica radio che ho lasciato fuori per non avere l'alimentatore in mezzo ai piedi, perché qua ti mando la foto, ti metti a piangere. Sono sommerso di scatole, scatolette in tutta la casa, e questa stanza praticamente è piena di scatole già imballate, roba da portare via, però ancora non posso muovermi del tutto, perché ci sono i muratori che stanno finendo alcuni lavori, e quindi però sto già liberando tutto e sto ammucchiando dove posso. Questa stanza l'ho liberata e quindi però sono anch'io incasinato. No, vai bene, 9 più 10, radio 5, addirittura noto anche il picchio positivo, quindi per me va più che bene. Sì, vabbè, ma tu già sei abituato a questi passaggi così, dai, stacchi attacchi, visto che cambi spesso macchina, quindi non è un problema per te. No, quella Mini l'ho vista la Batmobile, però non l'ho più vista in giro, pensavo che l'avessi data, capito, tutto qua. Ma ti sto mandando la foto così, giusto per farti capire come sono incasinato qua in questa stanza, un casino nero c'è. Ma non la gente. No, io adesso mi devo accoppiare, fare, sistemare tutto, ma poi mi servirà un'altra macchinetta perché chiaramente non sono più dentro Sassari centro, anche se non sono molto lontano, ma mi servirà un'altra macchinetta, appunto stavo pensando di prendere una cosa del genere. Ciao Roger, poi mi dici come ti sta arrivando, sto arrivando meglio dall'altro giorno. No, ma tu sei chiaro, io voglio una macchina da battaglia, capito? Non spendere molti soldi, tu sei chiaro, sì. Sono a Carbonazzi, dai, sono a Sassari. Va bene, va bene, va bene. E beh, tu hai preso un modello ultima generazione, c'è nuovo. Quello che ha preso Marco è una Battimobile. Ma va bene lo stesso, il modello è bellino, va bene. È quella che ti avevo dato una volta, no? ciao Eugene, io già sono qua, oggi relax totale, tanto non posso fare niente. Ah, con questo mi senti? Eugenio, mi senti? Attenzione, Eugenio. È andato a farsi la doccia, Marco. Ho capito, io mi sono spostato, ho acceso un'altra macchina, però mi sono spostato un pochino. Con questa come va, là? Meglio o peggio? No, ma c'è un abisso, Marco. C'è un abisso, intanto hai fatto un passaggio a 9 più 20, non so se sei in movimento, però c'è un abisso, anche come radio. Qua usando, sai, quello che uso sempre qua in macchina, nell'ML, l'antenna però è sempre una cosa di topo, non è... è sempre una cosa di topo, tipo quell'altra, quella là c'è quelle ghiere che sono regolabili, che possono essere anche qui, ma a questa qui tiene un pochino più watt, quella che mette, che non è troppo lunga, non è fastidiosa, sai, perché altrimenti sbatte o fa secondo dove passi. Questo è sicuramente più amplificata, no? È più amplificata, più forte, cioè un effetto presenza diversa, più bella, più forte. Comunque ti dico che quella radio vecchia come il cucco, ma c'ha una ricezione eccezionale, ma ti dico, ne ho una che è da restaurare, devo continuare a restaurare, ne ho poche di queste cose all'aria, ma sai, tipo il Catalina, te lo ricordi il Catalina? Ecco, un po' tipo il Catalina, però marcato Sears, ma con... forse potrebbe essere la base similare, ma diciamo la mainboard no, perché Catalina ha un pasticcio di radio, e invece questa radio qua è uno scatoletto così, porca miseria, ma c'ha una ricezione anche di modulazione, ma non va bene, ed è niente, ma i canali, lo squash da una parte e il volume dall'altra, scrive la storia, ma la ricezione è fantastica. E quest'altra qua che ho tenuto perché proprio andava bene, non le ho date, perché tanti di questi che tempo fa avevo comprato addirittura, anche per questo ti segnalasse la cintura, che se no si arrabbia. Ciao Marco. Ciao Nathalie. Ebbene Nathalie, ciao. Dicevo, tutte queste altre, questi veicoli che avevo negli anni passati, un po', c'avevo un paio di camionisti e amici delle mie aziende, eccetera, e avevo regalati, la verità, regalati. E ho tenuto adesso non so quanti ne ho, ma qualcuno l'ho tenuto, perché ho detto, se mi serve magari fare qualche cosa, un giro magari con degli amici, macchina, eccetera, rimanere in contatto. Allora ne ho tenuto qualcuno, sai, con base magnetica, eccetera, in maniera tale che puoi fare quattro chiacchiere e vedete per viaggiare. Ricca, ciao Claudio, anche a te. Quello lì me l'hanno rubato dalla macchina a me, il 5024 della Toccai. Me l'aveva regalato mio fratello quello lì. Già sono belle cose, no? Io di veicolare ne ho tenuto tre solo, ma ho tenuto l'Elbex 8024, l'Alan 48, il Sears io l'ho avuto, però il 23 canali, che tra l'altro aveva anche l'SSB, e mi pare che uguale a quello che avevo io, sai, che marrone, sembra perché quello è quel colore lì, mi pare c'era Biattino anche, io avevo quel modello lì, 23 canali con le bande laterali, non mi ricordo che fine aveva fatto la verità. E poi ho preso basi, veicolari ne ho tenuto ben pochi, ogni tanto li metti lì, qualche volta lo uso qualcuno, ma altrimenti sempre i soliti base a 220. Ok, vi chiedo permesso di allontanarmi un attimo, perché come hai visto Marco, non so se l'hai visto, ma sono incasinato, perso, devo fare un paio di spostamenti, qua che ho un po' di scatole nel salone, devo spostarle, cercare qualche buco da mettere, perché altrimenti mia moglie si incazza, io ho messo tutto in mezzo ai piedi, dai. Se ci siete ci sentiamo dopo, ok Marco? Fai, non ti preoccupare, e io tanto mi sono riuscito a mettere, ho messo un po' anche le mele, ho fatto un giro così qua, poi centinaia di metri, tanto per farla funzionare. Adesso riparcheggio anche la mini, vai tranquillo. E in base, infatti, a me il professore Balla mi piace, alcuni ne ho ancora tanti, ma alcuni ne ho tanti. Ne ho tanti e adesso è da anche un po' che non metto più in funzione, poi sarà anche incasinato perché come sempre poi si scaricano i condensatori e cose varie, è un macello. Bravo, attenti, vai Natalia, antenna a te allora, come stai, dimmi? In via di guarigione, mi hanno operato per la seconda volta e adesso sono in convalescenza, diciamo lui. Vabbè, quello, siamo alla sbrigata subito. La mattina mi hanno operato e la sera me ne sono andato dall'ospedale. Ecco, ti sento che è dal cuore, ma tu stai tranquillo perché intanto c'è quel proverbio che è vero, roba amara, non li muori, perciò tu puoi stare tranquillo, Natalia. Sì, sono vivo per miracolo, Dai. Già è dura la buccia. C'era un giorno che è andato a farsi la buccia, ha detto così, prima io mi sono spostato da una macchina all'altra e ho perso una decina di minuti, non so se magari è rientrato. La regolazione è nata lì, questa, come tu che già tante volte mi hai sentito, è sempre la stessa, perché qui poi ogni volta mi dimentico, rimuovo i settaggi, sposto i settaggi per l'uso, per le varie prove, cose varie, e poi ci vado un po' a tentoni. Ma mi sembra che anche Claudio mi ha detto che sta andando bene, che va bene così. No, già va bene Marco, con la modulazione, già va bene. No problem, molto amplificata. E qua c'è un suo preamplificatore per migliorarla, perché sai bene che quella radio non ha, tra l'altro, già abbastanza deficitaria come microfono. Io l'avevo anche modificato per migliorare un po' le caratteristiche e devo dire che aveva migliorato notevolmente, ma in AM non è il suo forte, perciò niente, ho messo un preamplificatore e così va un pochino meglio, ma ti dirò che va anche molto meglio, anche in banda laterale la tariffa, anche in banda laterale mi ha giovato questo preamplificatorino qua. Sì, vanno bene, quindi ce l'ho avuto anch'io quella lì. Cosa ti volevo dire? Non mi ricordo di quando avevo attaccato il Turner Q2 a quella radio. Mi è arrivato Eugenio, è ritornato. Sì, mi ricordo. Ma il Turner, Tina va bene con tutte le radio, con quei microfoni che ha fatto la Turner. Sono veramente una cosa fantastica, un circuito semplicissimo ma efficace, qualsiasi radio va sempre alla grande e difatti vedi che i prezzi, nonostante sono passati 40-50 anni, ma quei microfoni sono sempre molto ambiti e ricercati. Sentiamo Eugenio, dimmi se così mi senti meglio oppure no. Questo diciamo che è un'altra macchina, la penna sulla capota, cioè è più performante questo, è quello là e insomma l'ho impiato così tanto per mettere qualcosa se c'è voglia di fare due chiacchiere così in banda cittadina. Vai bene, Natalia, Eugenio, lo senti? È basso, lo sento perché io sono in basso qua. Questo qui il microfono come sta andando, Marco? Ciao Eugenio, se mi ascolti. Sentito, Natalia? E basso, confuso, lo sento, perché io sono in zona bassa, c'ho l'antenna bassa pure, mi capitola, è per quello. Lui ti sente, Natalia, lui ti sente bene, qui ti sente. E qui adesso Eugenio arrivi 7 come segnale, con l'altra radio ti ricevevo un pochino più basso, ma qua ti ricevo decisamente meglio. Vabbè, mi sono anche un attimo un pochino spostato, non è proprio la stessa posizione dove ero parcheggiato con l'altra macchina, ma la radio è decisamente un'altra, questa è un po' è più performante, molto più performante. Va bene, Natalia, la modulazione va benissimo, lascia tutto così, la voce è bella amplificata, va un bisù, va un bisù. Io adesso vi devo salutare perché è arrivata anche la signora e niente, e rientro, parcheggio la macchina e me ne ritorno a casa. Dai, ciao Eugenio, ben sentito, alle prossime. Ciao Claudio, intanto sta imballando, sicuramente in ascolto. Ciao Natalino, mi ha fatto piacere rincontrarti, mi raccomando, piedi duro e ci sentiamo presto. Marco Scorza, con la Marina, va alle alture di Filiedo, ciao ciao. Ciao Gigi, grazie, ciao ciao. Ciao Marco, ciao Gigi, anch'io me ne passo in quei retti che devo cenare, ci sentiamo alle prossime, dai. Sempre là 9 più 30 te ne vanno tu. 9 più 30 ti ho detto tutto. Niente, cosa vai, ce l'avevo eia no, no, allora stai arrivando 9 qua, ciao Antonio. Lo fra 9 e 10 sei tu, dai, ma non è nella posizione che deve essere, capito, fra. Poi quando ho terminato, adesso è perché ci avevo spazio, te sì che la sposto, ma non è al posto suo ancora, eh. Va bene, poi sto usando il baracchino, quindi adesso poi quando metterò il K sarà un'altra musica, eh. Beh, con quello è diverso, sì. Non è infatti da qualche parte in più, da Serena. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera, caspita. Non mi ricordo chi sei, ui, che siamo. Da Porto Torres, forse, è vero? No, Antonio, da Corso. Prova a indovinare. Sì, sei coso. La Sorso, adesso non mi viene il nome, ga. Franco, dai, siamo in tanti, siamo in Franco. K910 e Radio 5. E buonasera anche a lei. Ciao Eugenio, mi hai ascoltato dopo tanto. Sì, il segnale di otto Radio 5. Boh, è tanto tempo adesso, ma no, mi sembra che intorno agli 8-9 stesso. Cappa, sì, già va bene. Va benissimo, già è una tenda buona quella. Ui, buonasera Eugenio. Beh, come va? Tutto bene? Abbiamo migliorato qua la radio, ti sento meglio stasera. Già è buono. F4 perché Fusaro non ce l'ha a Sassari. Sì, chi vi dà? Hola. Cappa, chi è che vuole entrare? Avanti? Cappa, ho sentito qualcuno che voleva entrare. Non lo so, no, non era Gianni. Gianni Lubrofè, avvisi. No, non ero io, raga, dai, io vi saluto, ciao di nuovo, oggi ci sentiamo dopo se coincide, perché sono incasinato, perso qua, dai, ci sentiamo dopo, ragazzi. Ciao Franco, mi è sembrato Daniele quello di poco fa, mi è sembrato, non so sicuro. Ciao a tutti, comunque a più tardi se coincide, vai Anto. Cappa, eia, ciao Cla, mi ha fatto piacere, mi ha fatto sentirti, dai. Cappa, avanti io, da Sorso. Ehi, sempre Branco, giù. Ciao Claudio, ci ascoltiamo le prossimine, dai. E adesso che ho il bricocco in mano, ve la lascio anch'io, mi stavo chiamando a mangiare. Ci sentiamo. Ciao Eugenio, buon proseguo, buon tutto, dai. Ciao Antonio. Ciao, aspettiamo le prossime, riprendi Antonio e tutto a girare. Chi era poco qua? Oh, Daniele sei tu? No, non era Daniele. Avanti UG. Spaviero ha chiuso. Cappa, come vuoi, dai, non è un problema. hola, hola, hola, hola, hola, non esce. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3, hola. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola, 1, 2, 3, prova. Ai, doppio rum. Ora, prova radio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio. Prova radio 1, 2, 3, 4, 5. Prova radio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora. Ora prova radio 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio. Copo, copo. Ora prova radio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora. Ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio.